as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo qui di nuovo al Pane e Rose, la città Fujiko 103.1. Ricordo a tutti la trasmissione in cui cerchiamo di parlare di lavoro, di lotte sindacali, di vertenze, di buoni accordi, di cattivi accordi. Viviamo in un momento un po' drammatico, però voglio dare una buona notizia. Ricordate quello che è successo nel mese di luglio, gli arresti dei 6 sindacalisti, 4 dei Sicobas, 2 dell'USB e altri 2 dell'USB che sono stati messi comunque gli arresti domiciliari. Quella vicenda triste di Piacenza e cui se ne parla tutta l'estate. Prima delle votazioni, prima dell'estate, siamo andati in vacanza con questa tristissima storia. Fortunatamente sono stati subito scarcerati circa il 5 di agosto. Noi prima delle elezioni siamo riusciti a parlare con Montanari, il funzionario dell'USB che è stato anche lui arrestato, il quale ci ha raccontato tutte le evoluzioni, anche le cose positive, perché praticamente si sta smontando piano piano tutta questa vicenda. Le accuse più gravi come associazione a delinquere sono state già ritirate, sono state insomma in più anche le altre insomma accuse gravissime di cui sono stati accusati i nostri amici e compagni sindacalisti, di cui io ho tanto rispetto visto le lotte che hanno svolto nella logistica. E poi dopo l'intervista ci saranno le conclusioni in cui io dirò anche la mia sulla vicenda. Adesso sentiamo un bellissimo pezzo musicale e poi ascoltiamo Montanari che ci racconterà insomma la sua versione e insomma anche gli ultimi sviluppi che ci sono stati. A dopo. Just hold, just a come left and right. Well, I bet. Ooh, yeah. Ah, boy. And them say, here comes trouble, here comes the danger, sent by the Savior. Welcome the Rasta youths. I and I start recruit soldiers for Selassie army. Hey. Here comes trouble, here comes the danger, welcome the Savior. Welcome the Rasta youths. You're not for axes who are the general issue in a warning. Jah people them a ball, said them tired of mediocre. Evil a go fall when we tread in a Ethiopia. Me leaving from down, cause them life no easy boat. Even Bantan said it's not an easy road. Operation, occupy the motherland. Calling all soldiers to kind each other along. From creation, he writing a Jah plan. But chronics can't do it alone. So I'm recruiting soldiers coming from near and far. I choose executing Selassie I works and me lost a far right truth. And them say here comes trouble, here comes the danger, sent by the Savior. Welcome the Rasta youths. I'm gonna start recruit soldiers for Selassie army. Here comes trouble, here comes the danger, welcome the Savior. Welcome the Rasta youths. You're not for axes who are the general issue in a warning bowl. Waving the banner red, green and gold. It is such a honor prophecies unfold. Discovered on stones, on trees and scrolls. And even in the stories that Jesus told. Rasta youth must inherit the earth. Can't sit down, Jaja send me fi work. Bring the fire in a room, Jaja send me fi purge. But I can't do it alone. Rasta recruiting soldiers coming from near and far. I choose executing Selassie I works and be lost a far right choose. Here comes trouble, here comes the danger, sent by the Savior. Welcome the Rasta youth. I and I start recruit. Soldiers fissile, I see your army, hey. Here comes trouble, here comes the danger. Welcome the savior, welcome the Rasta youth. You know fi ask is who, a the general issue we not warning, hey. Left and right, the soldiers are gone. Left, right, the soldiers are come. Hey, could I never throw it down, oh boy. Yeah, and we say left, right, the soldiers are come. Left, right, the soldiers are come. Left, right, marching on, boy. And we say, here comes trouble, my friend. And here comes danger. Rastafari send me come. I said we sent by the Savior. Here comes trouble, my friend. Here comes danger, boy. Ooh, nah. Hey. And them say here comes trouble. Here comes the danger. Here comes trouble. Allora, siamo qui con Roberto Montanari, USB Logistica Piacenza, e ne approfittiamo perché è da un po' che volevo intervistarti, ma oggi io penso che sia la giornata migliore per farlo, perché vogliamo che tu ci racconti un po' lo scandalo dal nostro punto di vista, quello che è successo, gli arresti infami che ci sono stati verso i delegati e i funzionari del Sicobas e dell'USB mesi fa. Quello che è successo per noi è uno scandalo. Io vorrei che tu ci raccontassi in breve quello che è successo e poi tutte le evoluzioni. Sì, beh, intanto diciamo appunto che in questa estate ha avuto fine una prima fase del teorema. Il teorema appunto è quello che le lotte sindacali rappresentano una forma di estorsione nei confronti delle multinazionali con il fine, come dire, di acquisire potere e benefici personali da parte dei compagni che appunto sono poi protagonisti di queste lotte. Ovviamente, come dire, nel teorema viene definito un criterio. Il criterio è quello della lotta per le tessere, cioè fare delle lotte, vengono fatte delle vertenze, vengono fatte delle lotte, delle forme di sciopero anche molto radicali, con l'unico fine di convincere i lavoratori ad entrare nel tuo sindacato perché sei più combattivo degli altri. Una delle tesi della procura piacentina è che appunto non ci sarebbero ragioni per arrivare a forme così forti di protesta come quella ad esempio della salita sui tetti in un paio di volte in un magazzino piacentino della GLS. In un paio di occasioni i lavoratori sono stati costretti a salire sul tetto per rivendicare diritti minimi. Nel primo caso si trattava di lavoratori in nero, lavoratori che sono stati fatti lavorare per anni senza contratto, a chiamata. Abbiamo le registrazioni, presto, 15 persone subito di notte venite a lavorare, via dicendo. Quando hanno chiesto di essere messi come dire, a contratto normalmente, di essere regolarizzati, sono stati sbattuti in mezzo ad una strada. La strada che hanno poi scelto è stata quella dell'auto-organizzazione in USB e della salita sul tetto. Seconda situazione è stata quella dei 33 lavoratori licenziati perché c'era uno sciopero per garantirsi condizioni di sicurezza dentro il magazzino. I loro scioperi sono stati considerati assenze ingiustificate perché l'azienda addirittura si permetteva di disquisire sulla regolarità dello sciopero. Anche lì sono saliti sul tetto e poi sono stati ovviamente riassunti e reintegrati dal Tribunale del Lavoro di Bologna addirittura. Poi dopo. Questa è la situazione che c'è nella logistica. Noi ci siamo trovati in un ambiente nel quale, come dire, la facevano da padrone la malavita organizzata e le forme di schiavismo più brutali da 800, insomma, pur essendo nel terzo millennio. non ci siamo girati dall'altra parte, noi siamo un sindacato abituato a rivendicare, a discutere, vi dicendo, nel momento in cui ovviamente i padroni si girano dall'altra parte o si comportano con arroganza, sono venute le squadracce della camorra organizzata, ricordiamo. Tanto per capirci, come documentato dalla Guardia di Finanza di Salerno, peraltro, noi abbiamo fatto lotte di questo tipo e quindi il fatto di aver dato vita a delle vertenze nelle quali in modo radicale i lavoratori sono riusciti ad ottenere risultati positivi ci ha equiparato alla condizione appunto di associazione a delinquere. Il teorema è stato una prima volta smentito dal Tribunale della Libertà di Bologna, che ha definito come questa sia in realtà una normale attività sindacale. Oggi in un processo invece che riguardava le forme di lotta, quindi lo sciopero, in un cambio appalto in GLS sempre, dove i lavoratori quando ci sono i cambi appalto lasci per strada scatte di anzianità, trattamento di fine rapporto, livelli, buste paga, di tutto e di più. Bene, in quello sciopero appunto noi siamo stati equiparati ancora una volta ai sabotatori, vi dicendo, il Tribunale di Piacenza ha ritenuto che invece si trattasse di un normale sciopero. Cominciamo a ripristinare come ottima notizia, normalità. Ottima notizia, siete stati assolti oggi. Ne abbiamo un'altra decina sulle spalle, ma vabbè, questo... La cosa che ci ha colpito, io anch'io sono un delegato sindacale, sono 20 anni che faccio il delegato, la cosa che mi ha colpito, che mi ha scioccato è stata che sul giornale abbiamo letto che addirittura il fatto di aver chiesto migliori condizioni rispetto ai contratti nazionali è illegale. Una cosa che noi comunque facciamo normalmente nella nostra attività, anche io sono della FIOM, mi capita normale di far questo, anzi io non lo applico proprio il contratto nazionale, il mio contratto interno che addirittura è sopra il contratto nazionale, però io mi sento un criminale, non mi sono mai sentito così. Sì, consideriamo che nella logistica i contratti nazionali sono contratti, come dire, spesso e volentieri al ribasso. Quello che noi facciamo è quello appunto di ottenere nella contrattazione di secondo livello, quindi quella aziendale, migliori condizioni dal punto di vista salariale, dal punto di vista normativo, dal punto di vista delle condizioni di sicurezza, che nella logistica sono una parte importante, insomma, perché è storia comune non avere i DP, i dispositivi di protezione individuale, è storia comune avere il cappetto che ti rompi i coglioni, che ti fa correre come un disperato e poi ti sfracelli con il carrello, con il muletto e via dicendo. Quindi noi, come dire, definiamo carichi e ritmi di lavoro, ad esempio, sono uno degli elementi di contrattazione. Una cosa che ti volevo chiedere, quanto è stata importante la lotta fatta sia dall'USB che dai Sicobas per la vostra liberazione e anche per la soluzione che si sta, cioè la caduta di questi teoremi assurdi, no? Sì, diciamo che è stata molto importante la solidarietà, una solidarietà internazionale. Io posso dire con orgoglio di appartenere ad un'organizzazione sindacale USB che parte della Federazione Sindacale Mondiale. Davanti alle ambasciate italiane di mezzo mondo, i nostri fratelli dei vari paesi sono andati a manifestare, a reclamare il diritto di sciopero, insomma. Quindi questa è stata una cosa importante. Devo dire, c'è stata anche una buona mobilitazione del mondo accademico e degli intellettuali che hanno appunto messo in luce la mostruosità giuridica di questo teorema che attacca il diritto di sciopero, insomma. Adesso cosa avete intenzione di fare? Com'è che volete reagire sia a questo ma anche andare avanti, perché comunque ci sono tante sfide, no, che avete in questo momento? Beh, intanto, come dire, la prima cosa che facciamo è continuiamo a fare esattamente le cose che facevamo prima, quindi siamo impegnati nei magazzini della logistica, andiamo avanti con le nostre lotte. Abbiamo un paio di scadenze abbastanza ravvicinate: una è la realizzazione di un film documentario sulla logistica, dove mettiamo in luce quella che è la storia del movimento di lotta dei facchini e i risultati che hanno ottenuto con le loro lotte. In più, il 20 e il 21 di ottobre stiamo organizzando un convegno nazionale a Piacenza sui temi appunto della repressione della mostruosità giuridica di questo teorema. Un'altra domanda che ti volevo fare è l'unità sindacale. Abbiamo visto negli ultimi periodi che l'USB insieme a Sicobas e altri sindacati di base si sono uniti a fronte di varie questioni, sia di tipo nazionale. Nella logistica questa unione vedete davanti a voi una, perché in passato vi ricordo che ci sono state dei forti tensioni, sono state passate anche quello che è successo, insomma, alla fine. Guarda, per quanto riguarda la nostra organizzazione, noi siamo, come dire, ovviamente favorevoli a tutte le forme di unità, di lotta dal basso. Se tu vai a vedere nella storia della nostra organizzazione, noi rarissimamente abbiamo polemizzato con le altre organizzazioni sindacali, siamo per l'unità, non ce ne frega più di quel tanto degli elementi identitari, siamo molto pragmaticamente per costruire un campo di forze che riesca a contrapporsi ai padroni e ai signori della logistica. Noi Panelle Rose siamo d'accordo con voi, l'unità dal basso è anche il nostro obiettivo che noi cerchiamo in tutti i modi. Bene, c'è la prossima scadenza, quindi sarà il prossimo sciopero generale quest'autunno contro il governo, contro gli eredi, si sta ancora discutendo tra le organizzazioni del sindacalismo di base, contro gli eredi del governo Draghi, perché chiunque vinca in queste elezioni, che sia il cosiddetto centro-sinistra o che sia la destra, l'agenda è la medesima, insomma, i contenuti sono lì, quindi il nemico ce l'abbiamo lì davanti. Lo sai che lo sta dicendo anche Landini questa cosa qua, eh? Sì, Landini, il problema però che è a capo di un sindacato che mi sembra sia molto amico di Draghi e dell'agenda Draghi, non lo dico per polemica, cito le sue parole, è stato lui che è andato a forse a cambiare idea adesso. Speriamo. Ok, ti ringrazio e speriamo di incontrarci presto nelle lotte. Ok, grazie. Sheriff John Brown, that man hated me for what? I just don't know. Whenever I would try to plan a scene, he would say kill it before it grows. Thank you. sangue ci sa giallasse. Mi dia clown stem una più se ne porto per te. Mi dia clown stem una più se ne porto per te. Boom! The young trend set to come on. Moe the damn slow. Wanna bust a trick a finger like bamba me da do. Wanna bust a trick a finger. Come on man, here we go. Burst on in the lana, here we go. Cause got to keep it moving on the road to Zion. Got to keep it burning on the road to Zion. To keep it burning on the road. I got to keep it burning. Little bit of dog, we can make it through the night. With a little bit of dog, we can make it through the night. With a little bit of dog, we can make it through the night. With a tanani, tanani, tanani, tanani, the boy. With a little bit of dog, we can make it through the night. With a little bit of dog, we can make it through the night. With a little bit of dog, we can make it through the night. With a tanani, tanani, tanani, tanani, the boy, come on. Allora, avete sentito prima di questo pezzo meraviglioso Roberto Montanari dell'USB di Piacenza, uno dei sindacalisti arrestati quest'estate. Avete sentito come lui ha raccontato benissimo la realtà della vicenda di Piacenza. Chiaramente io non sono un esperto in questioni giuridiche, non conosco gli atti del processo, ma sicuramente il fatto che l'associazione a delinquere è caduta, l'accusa, e anche la questione dell'irregolarità degli scioperi effettuati sia caduta anche questa. Certo, ci sono tante altre accuse, come diceva anche Montanari, però io non voglio andare nel merito giuridico, anche perché, ripeto, non sono un esperto, non conosco tutti gli atti del processo e non ho seguito la vicenda come a livello giuridico. Quello che mi interessa è l'aspetto sindacale. Il fatto, come ho detto anche a Montanari, che i giudici, insomma chi ha condotto l'indagine, o i giornalisti che hanno scritto infamando i sindacalisti dicendo che è una cosa vergognosa, loro facevano le lotte per migliorare le condizioni dei lavoratori rispetto al contratto nazionale, questo è una cosa da criminali. È una cosa molto pericolosa, perché questo meccanismo, queste parole sono cose che in altri paesi sono la normalità, nel senso che in molti paesi del mondo i contratti, una volta firmati da qualsiasi altro sindacato, poi non si può lottare per migliorare le condizioni. Questo è molto pericoloso. Perché in Italia, oltre al fatto che ci sono alcuni contratti nazionali che sono al ribasso, immaginiamo come quello dei multiservizi, ma non ci sono solamente quei, sono tanti contratti nazionali, anche nella logistica, che non sono questi gran contratti. Ma questo accade un po' in tantissime categorie, ma anche dove purtroppo spesso si firmano dei contratti perché le condizioni non permettono di firmare e di andare oltre. Sì. La regola è questa, nel senso che una volta che si firma un contratto, e chiunque lo firma, perché in Italia fondamentalmente non esiste nemmeno delle regole in cui si va a vedere chi ha firmato questo contratto, che effettiva forza ha tra i lavoratori e che consenso ha tra questi lavoratori, poi non si può più fare un'avvertenza, non si può più fare una lotta per migliorare le condizioni. Questo immobilizza i sindacati, ma i lavoratori, e peggiora tantissimo le condizioni dei lavoratori. Oggi in Italia noi abbiamo tantissimi contratti pirata, tantissimi sindacati che spuntano dal nulla, che spesso sono sindacati, definirli gialli, gli facciamo un complimento, i quali firmano degli accordi al ribasso, e poi se non si può fare nessuna lotta per migliorare questi, siamo finiti. Questo è molto pericoloso. Ma io voglio ricordare a tutti che questi arresti sono anche frutto di leggi decreto sicurezza Salvini, che hanno criminalizzato le lotte sindacali. Io penso che si è fatto poco per combattere il decreto sicurezza Salvini e tutte le complicazioni. Oggi fare un picchetto si va in galera. Si va in galera molto più facilmente facendo un picchetto che investendo un lavoratore davanti al picchetto. Siamo a queste condizioni. Cioè, sono più criminali quelli che scioperano davanti a un cancello che i camorristi assoldati dalle cooperative, perché di questo stiamo parlando. Cioè, Montanari ha spiegato benissimo le condizioni della logistica. Non siamo tra i bancari, okay? Siamo tra i facchini. Stiamo parlando della logistica dei facchini, delle cooperative, degli appalti, dei subappalti. Stiamo parlando di dove c'è lo schiavismo, c'è il lavoro in nero, c'è lo sfruttamento, dove la gente muore anche durante il Covid. Cioè, dopo i sanitari sono stati loro quelli più colpiti. Perché? Perché c'è un livello di sfruttamento nel mondo della logistica che non ha uguali. Non ha uguali. Forse solo i braccianti agricoli del Foggiano hanno le condizioni peggiori di questi lavoratori. Stiamo parlando veramente di cooperative che sono spesso in mano alla criminalità organizzata. Certamente che la lotta è dura, non può essere altrimenti, anzi, sono stati anche morbidi alcune volte i compagni. Ecco perché io credo che in questo momento, proprio quando l'USB e Sicobas, che avevano effettivamente dei problemi, soprattutto a Piacenza, che ci sono sempre le discussioni tra sindacati, questo succede, io sono della FIOM, tra noi la FIM, la UILM, l'UGL, ci sono insomma le questioni che spesso si cercano di crescere, di consenso tra i lavoratori, purtroppo succede, ma l'importante è l'unità dal basso. Proprio quando l'USB e Sicobas avevano raggiunto un'unità dal basso, soprattutto negli ultimi periodi, hanno fatto manifestazioni e scioperi insieme, vengono attaccati e colpiti come se li volessero dividere. Questo per me è molto molto, c'è qualcosa dietro che mi fa molto riflettere e dovrebbe far riflettere tutti quanti noi su dove stiamo andando. Dobbiamo reagire a questo che è successo, dobbiamo reagire a questa violenza che i padroni ci stanno facendo attraverso lo Stato, e dobbiamo unirci sempre di più per combatterla e per ritornare a difendere i nostri diritti con tranquillità e forza. Vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata. Risorgiamo, sorgiamo come il sole al mattino.